loro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Voi sapete cos'è la noia? Dite se ci si può mai annoiare con quello che succede in una settimana e che ci raccontiamo poi qua il sabato come sempre dalle 14 alle 15. Qual è la notizia della settimana che più vi ha colpito in questi giorni? Sono moltissime. Come sempre il mondo gira senza fine e in ogni angolo del mondo succedono delle cose, poi già bastano diciamo quelle che avvengono in Italia, anche se ormai sapete tutto il mondo è globalizzato e ogni notizia che succede un po' come a domino dall'altra parte del mondo poi si ripercuote anche da noi e viceversa. Più o meno, insomma. Siamo qui per raccontarci allora le notizie, scambiarci pareri, libere opinioni sui fatti della settimana. Il numero verde è 800 24 00 24. E che cosa ci dice invece questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni? Allora, noi già siamo sufficientemente preoccupati, diciamo, in genere abituati a essere preoccupati chi più chi meno della propria salute, della salute dei propri cari. Ebbene, adesso una pubblicità ci mette un'ulteriore ansia serpeggiante, proprio come la serpentina sotto sotto. Anche la lavastoviglie ha le arterie occluse. E non so se avete visto questa pubblicità, con un cuore che batte, queste arterie effettivamente molto ostruite, che uno pensava il colesterolo per se stesso, anche la lavastoviglie, con questo cuore che batte a fatica. Ecco, a me questa cosa dà un'angoscia pazzesca, perché devo dire che probabilmente le pubblicità più angoscianti sono proprio quelle legate alla lavastoviglie. Fino a qualche tempo fa si vedevano liquami, cose terribili che uscivano dai tubi. Voi non sospettate nemmeno, diceva la pubblicità, che ci sono tutte queste cose orribili nella vostra lavastoviglie. E adesso c'è anche le arterie ostruite. Quindi insomma, vedete un po' voi. Ho pensato così, tra me e me, di liberarmene definitivamente di questa lavastoviglie. Comunque 800 24 00 24. Tra poco andiamo sulle altre, sugli altri fatti della settimana, giusto per elencarvene qualcuno di quelli più in vista, ovviamente. Beh, innanzitutto, a proposito di ansia, ma insomma gli allarmi sono quelli che sono, non è che si può vivere sempre con l'angoscia. Siamo alla vigilia dell'11 settembre, sono passati 10 anni dall'11 settembre 2001, l'America è col fiato sospeso, ogni volta naturalmente che torna l'11 settembre non solo c'è questa paura che il trauma così si possa ripetere, ovviamente speriamo di no, però questa è la situazione un po' di allarme, diciamo, negli Stati Uniti. Poi quello che è successo ai vertici della Banca Centrale Europea, che ha fatto anche precipitare le borse, con il capo economista della BCE che si è dimesso, Stark, perché non è d'accordo sugli aiuti, sugli acquisti di titoli di Stato dei paesi in difficoltà, tra cui in prima linea Italia e Spagna, e quindi questo poi ha fatto appunto precipitare le borse. Poi la manovra economica in Italia, c'è stato il primo sì del Senato con la fiducia, adesso dovrebbe esserci nei prossimi giorni invece il passaggio alla Camera. Che cosa avete da dire di questa manovra? E poi ancora, che cosa ci può venire in mente? Beh, per esempio, il presidente del Consiglio Berlusconi è tornato ieri alla festa di Atreio dei giovani del PDL a parlare un po' a tutto campo, dalla manovra che ha detto la BCE, che ce l'ha dettato, che ci ha detto come andava fatta. Abbiamo fatto un miracolo che nessun altro avrebbe fatto, e poi è tornato ad attaccare i magistrati. Dice di avere un senso di impotenza perché, nonostante sia presidente del Consiglio, ha poco margine di manovra. Quindi questa è un'altra notizia, diciamo, delle ultime ore. E poi le inchieste con gli sviluppi incredibili, non giorno per giorno, ora per ora. Uno sul fronte, diciamo, Penati, presunte tangenti a Sesto San Giovanni, e l'altra l'inchiesta su Tarantini e la presunta estorsione tra Tarantini e la Vitola nei confronti del presidente del Consiglio Berlusconi. Insomma, ogni poco ne viene fuori una. Qual è la vostra notizia? Su cosa volete ritornare questa settimana? Intanto, prima di tutto, per darci un validissimo supporto, abbiamo l'opinionista estemporaneo di oggi, che è, signore e signori, Giorgio Mulè. Buongiorno. Buongiorno caro Giorgio, ti sento pimpante, tonico. No, mi portate fortuna ogni volta che sono in collegamento con te, sono sempre in grandissimi bei posti. Quindi... È vero, sei ancora in Sicilia, dove sei? Anche stavolta in Sicilia, stavolta a Palermo, ma un posto meraviglioso quanto la provincia di Trapani. Bellissimo, tutta la Sicilia. E qui non ci sono le mezze stagioni, qui no. È estate piena, meraviglioso, non c'è però il caldo africano di agosto, c'è un caldo stupendo e quindi paradiso, devo dire, paradiso, giornata paradisiaca. Se rinasco faccio la direttrice di Panorama, guarda, te lo dico. Ma non ti conviene molto, guarda, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti non è esattamente auspicabile, però mo sì, dai. Senti, Giorgio, anche perché volevi dire? Sì. Prego? Sì, volevi dire anche perché hai lasciato in sospeso? No, anche perché ultimamente, dico soprattutto da Napoli, sono accadute una serie di fatti per cui siamo anche sotto inchiesta per favoreggiamento, insomma non sono delle belle cose. Perché dicono che avete bruciato in anticipo l'inchiesta sulla Vitola e Tarantini. Sì, quindi è una cosa, poi se voi ne parliamo, insomma. Sì, certo, è una delle notizie della settimana. Naturalmente. Giorgio Mule, quindi direttore di Panorama, io penso di aver capito che la sede operativa di Panorama si sia spostata in Sicilia a questo punto. Se ogni volta che ti chiamo tu sei in Sicilia, Giorgio, mi viene questo sospetto. È auspicabile. Il problema è che sono qui soltanto il sabato e la domenica una volta ogni 4 mesi. Dovremmo aumentare la frequenza soprattutto dei collegamenti. Sentirci con te, così tu sei in Sicilia. Esatto. Giorgio, allora, prima di tutto io vorrei affrontare una questione molto importante all'inizio. Non vorrei prenderti in contropiede con una cosa così forte che sto per chiedere, ma è una questione che ha creato molte polemiche questa settimana. So che tu sei pronto a tutto e quindi non ti farai nessun problema, no Giorgio? Assolutamente. Allora, ascoltami bene, se bene in ascolto. Allora io ti chiedo quali sono gli ingredienti della grattachecca. Guarda, io sulla granita non temo. Non è granita, non è granita, perché la granita siciliana è un'altra cosa. Sto cominciando da una premessa. La grattachecca è un surrogato della granita. Okay. I romani adesso. È un surrogato della granita, dopodiché non c'è il primato della grattachecca, c'è il primato della granita, che infatti nasce storicamente in molto Sicilia. Prima, perché è di epoca araba, quindi siamo all'inizio dell'anno 1000, mentre la grattachecca è un surrogato che arriva nella Repubblica Romana a metà dell'Ottocento. Sono preparatissimo. Mamma mia, qualcuno può pensare che ti avessi invece non ti avevo detto addirittura tutto il percorso storico, le origini. Senti, però io so che ci sono sempre delle accesissime discussioni tra romani e siciliani sulla storia della grattachecca, della granita. Uno dice no. La grattachecca non sono due può cose diverse, neanche lontanamente paragonata alla granita. La granita è un piatto, come dire, in cui ci vuole arte per farlo. La grattachecca ci vuole delle capacità, ma sono non neanche tagliere. Lontanamente comparabili con quelle della granita. Mamma mia, quindi in realtà nella domanda, nel quiz, i corsi alla Sapienza sulle professioni mediche non dovevano chiedere quali sono gli ingredienti della grattachecca, bensì quelli della granita, della vera granita originale, quella del 1000 dopo Cristo, cos'era? Sì. Follia per follia, visto che non c'entra nulla con chi deve fare il medico, sarebbe stato meglio la granita. Sì. Vero, la granita. Senti, ma la tua preferita è quella di gelso? Quella di mandorle. Ah, di mandorle, beh certo, quella più tradizionale. Perché ho anche il tecnico. No, quella più tradizionale è quella di limone, Roberto. Ah, di limone, hai ragione. Anche in Costiera Amalfitana, che mi piace esatto, molto anche quella. Esatto. E c'è Pietro Lacorte, la parte tecnica, che è di Palermo e annuisce. Forse preferisce la grattachecca, però. Lui saprà che la granita di limone... No, non vuole sapere. No, la granita di limone si accompagna con le brioche palermitane, che non hanno nulla a che vedere palermitane. Con quelle che... Ma sì, perché a Roma ti dicono vuole il gelato col panino, cioè, che è una bestemmia per uno che arriva dalla Sicilia, il gelato col panino. La brioche è un'altra cosa. Ebbene, insomma, visto che abbiamo iniziato con le cose serie. Senti, Giorgio, invece volevi parlare della questione che vi riguarda personalmente, fra le notizie della settimana, vuoi partire dalla manovra, che cos'altro? Sono aperto a farmi trafiggere come volete. Molto bene. Allora, parliamo per esempio della manovra, no? Sì. Insomma, diciamo che tra vari cambi, emendamenti, torna indietro, torna avanti, no, questo sì, questo no, eccetera, adesso sembra arrivata con la fiducia al Senato e poi alla Camera. Questa storia, per esempio, una cosa sembra passata, ma poco convincente, quella delle province, e dall'altra quella del dimezzamento dei parlamentari. Calderoli ha detto no, i giornalisti sono in malafede perché è lì da luglio questo disegno di legge, però è in un cassettino chiuso e sembra che se ne siano completamente dimenticati, che tu sappia. Allora, la politica ha fatto il più tragico degli errori che poteva commettere, insieme a tanti altri che hanno inanellato di tipo politico. Il più tragico degli errori è quello di non essersi reso conto che in questo momento gli italiani sono anche disposti a fare sacrifici, ma pretendono, e io sottolineo giustamente, che l'esempio parta da chi certo. è sommerso da privilegi come certo. appunto i politici. Quindi al di là di quello che dice Calderoli, il segnale che arriva dalla manovra è un segnale pessimo, perché non incide in maniera visibile sui privilegi dei parlamentari, sui privilegi degli ex politici, non incide in maniera visibile sull'organizzazione, sui costi della politica, a cominciare dalle province, per scendere fino agli enti inutili che dovevano essere cancellati, quelli con meno di 70 dipendenti, e invece con un colpo di mano sono stati tutti salvati per garantire a trombati ed ex trombati dei posti di lavoro. Penso che sia stato chiaro. Chiarissimo, sei stato proprio lapidario, di una chiarezza lampante, cristallina. E, senti, però Anna Finocchiaro del PD, parte dell'opposizione naturalmente, ha detto il Colle e gli altri dovrebbero dire Dio salvi l'opposizione, perché fra le varie cose, emendamenti eccetera, che siamo riusciti alcune cose sciagurate a scongiurare, anche a ripristinare il 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, che restituiscono l'identità, diciamo, democratica repubblicana agli italiani. Quindi tu diresti Dio salvi l'opposizione, perché magari si fa già del male da sola, o guarda, con la stessa franchezza con cui dico che nel centrodestra c'è un problema evidente di leadership e di sbandamento, con la stessa autentica, diciamo, in maniera diretta, ti dico che Dio non ci deve salvare questa opposizione, perché è un'opposizione che grida all'Europa quando vuole spingere il governo nella direzione di alcune misure. Quando il governo spinge in questa direzione, allora si volta indietro, non vota, presenta emendamenti, ostacola la manovra. Io tutta questa, come dire, orgoglio italiano da parte dell'opposizione non vedo piuttosto il solito interesse a levare di mezzo ciò che viene individuato come il problema dei problemi, e quindi Berlusconi, in nome del quale tutto è concesso, e quindi anche di passare sopra gli interessi superiori, che sono quelli del paese. Senti, ma sulla questione che si continua a dibattere in questi giorni, soprattutto appunto da parte dell'opposizione, anche Pisanu però del PDL, no, che chiede che Berlusconi faccia un passo indietro, lui dice non ci penso proprio. Ieri tra l'altro ad Atreju, a proposito di Atreju, Giorgio Muletti, voglio dire questa cosa. La festa di Atreju dei giovani del PDL, no? Ogni volta che la si pronuncia molti sono convinti che sia una località della Sardegna, che invece è un personaggio della storia infinita, che era degli anni Ottanta, il film glorioso, esatto, questo che volava, su questa specie di... bravo, esatto. Perché proprio Atreju? Che non poteva, mi suggeriva qualcuno Mazinga Z piuttosto, che più evocativo. Perché Atreju? Ma io l'avrei chiamata Goldrake. Goldrake, mi piace molto, ancora meglio Goldrake. Actarus, cioè l'avrei chiamata come alcuni dei miei eroi giovanili, insomma. Sì, sì, ti capisco. Atreju, Invece Atreju, tutti i commenti che sono in Sardegna, invece è il nome di un personaggio di un film. Senti, cominciamo a sentire un ascoltatore al numero verde 800 24 00 24, che è Franco dalla provincia di Chieti. Franco. Rieti, che è nel Lazio, Chieti in Abruzzo, effettivamente sono un pochino esatto, distanti. Caro Franco, che cosa ci vuoi raccontare? Ma io ho un'assunzione che ho preso praticamente ascoltando la trasmissione televisiva del Lerner. Secondo me sostanzialmente per risolvere il problema italiano... Franco, ascoltami. Prima di tutto risolviamo il problema qui del collegamento. Io ti sento piuttosto male. Va bene. Ecco, parla, scandisci bene, forse sei in una posizione, sei in viaggio. Purtroppo mi dovevi richiamare perché sento a tratti. Senti a tratti. Siccome vogliamo che senti una linea continua, invece, possiamo, sì, Alessandro Balia ai telefoni, richiamare Franco per favore. C'è invece Tina dalla provincia di Milano. Passiamo la parola a lei in modo cavalleresco, ma adesso la linea è quella che è. Tina. Buongiorno, dottoressa Giordano. Buongiorno. Approfitto del fatto che sia il direttore di Panorama, ecco, e che parlava giustamente dei costi della politica, sì, e degli italiani che sono, posso dirlo, incazzati. Ecco. Diciamolo. Mi riferivo, volta, diciamo, sì, ecco, mi riferivo ai discorsi, ai vari interventi del presidente Napolitano proprio di questi giorni. Sul fatto che appunto gli italiani si devono mettere in testa che non sono più gli anni 80 ma nemmeno gli anni 70 e che quindi bisogna pensare in maniera diversa, sì, benissimo, però a cominciare da lui, io dico, del Quirinale, dei costi pazzeschi del Quirinale. Mi sembra che l'unico però che ha fatto dei tagli concreti, magari non quelli che ci si aspettava, però forse il Quirinale è l'unico che un po' veramente ha risparmiato. Riferisco un'altra cosa, intanto che c'è il direttore di Panorama che si ricorderà senz'altro, sì, che Indro Montanelli al primo mandato del presidente Ciampi e suo caro amico Azeglio aveva fatto un editoriale sul giornale dandogli il consiglio di lasciare libero il Quirinale, che è degli italiani, e che la Casa Bianca al suo confronto era una tranquilla villetta di campagna, e quindi noi non ci possiamo permettere un lusso del genere. Quando è che ci diamo una svegliata? Ecco, mi piacerebbe una bella risposta dal direttore. No, sul Quirinale allora bisogna distinguere, altrimenti il Quirinale in questo, come dire, ha un nervo scoperto, quindi immediatamente magari interviene e manda una nota. Allora, dici che chiama Napolitano che, qua? Sì. Fatto salvo il fatto che il presidente Napolitano ha dato plurimi segnali di andare nella direzione di non austerity e quindi anche di tagliare il suo appannaggio e quello di diversi delle spese del Quirinale, è sacrosanto ed è vero quello che dice Tina, e cioè che il funzionamento di alcune sedi istituzionali, come per esempio il Quirinale, che non ha soltanto la sede storica, ma può contare anche su Villa Rosberi a Napoli, può contare sulla tenuta di Castel Porziano, sulla tenuta di San Rossore, ha una serie di sedi che effettivamente, se fossero destinate per tutto il tempo e non solo come avviene al Quirinale per alcuni pomeriggi nel fine settimana agli italiani, sicuramente per esempio potremmo anche guadagnarci dei soldi, nel senso che pagando un biglietto minimo o comunque prevedendo un costo per questi, per la vita di questi luoghi, sicuramente potrebbe essere utile. Quindi se il Presidente della Repubblica, che non è napoletano, ripeto, ma è la figura del Presidente della Repubblica, si accontentasse al pari di altre figure del Senato, della Camera dei Deputati, anche in Parlamento, allora, fare qualche gita turistica. Il Parlamento è uno scandalo, perché sarebbe più piena di quando ci sono i parlamentari. Guarda, Camera dei Deputati e Senato pagano annualmente centinaia di milioni di euro in affitti per delle sedi distaccate dove avere gli uffici dei deputati. Quindi il discorso. Stai parlando di Monza? Monza in realtà, ministro, come dire, una cosa folcloristica, perché come dire, A non funziona, B è davvero folcloristica al pari di alcune iniziative. Se però si mettesse mano alla situazione immobiliare delle istituzioni, e ci metto dentro anche le regioni, perché forse pochi sanno che le regioni hanno uffici di rappresentanza totalmente inutili al di fuori del loro territorio, che potrebbero essere serenamente risparmiati per il bilancio pubblico. Quindi Tina ha ragione, bisogna soltanto distaccare, perché altrimenti, ripeto, arriva la telefonata del Quirinale, Napolitano non se la prenda a male, l'istituzione della Presidenza della Repubblica insieme a quelle, a tante altre, farebbe bene a fare una dieta visibile anche in questo caso, per dare dei segnali a chi giustamente pretende un'austerity da parte loro. Bene, Giorgio, e tra poco ci sono Franco da Rieti, Elisabetta da Vicenza, Mustafa dalla provincia di Parma, scusate ma sento già che l'estate finisce, ogni tanto devo schiarire la voce. Però prima di sentire le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori all'800 24 00 24, sapete, questa è l'unica trasmissione del globo intero che si collega, per avere diversi punti di vista, anche con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Ricorderete forse la scoperta eccezionale che vi ho riportato da Marte la scorsa settimana, e cioè che la materia oscura, di cui è costituito il 95% dell'universo, è in realtà concentrata in gran parte nella penisola italica e in specie nella manovra economica. Ebbene, la vicenda tra luci e ombre, tra barlumi e mistero, assume in questi giorni anche, come si può dire, un'aura quasi spiritual metafisica. Ebbene sì, non crederete alle vostre orecchie, ma i carabinieri del RIS di Messina, in Terra Sicula, che è la terra di Giorgio Mulè, stanno analizzando in questi giorni un quadro. Il quadro della Madonna del Riposo, che, attenzione, invece di riposarsi, piangerebbe lacrime e sangue. Proprio come la manovra e proprio come il cuore del Presidente del Consiglio, come lui stesso aveva rivelato giorni fa, il mio cuore gronda sangue per le nuove tasse di questa manovra. Insomma, delle analogie straordinarie, una congiuntura misterico-astrale, potremmo dire. E di tutti quelli che a loro volta avevano paura di piangere lacrime e sangue per questa manovra, per fortuna almeno qualcuno ha potuto tirare un sospiro di sollievo. I parlamentari, che non saranno dimezzati, come successe invece al Visconte di Calvino, resteranno tutti interi e tutti quanti insieme allegramente. Ma come, dirà qualcuno, non era previsto il dimezzamento da vari disegni di legge costituzionali? E vabbè, se lo saranno dimenticato. Stop, dimentica. Questo silenzio non vale neanche una parola, né una sola, e quindi... E che senso aveva del resto creare altri disoccupati? E le province, quelle sì che spariscono, e al loro posto delle belle province regionali. E sì, è una questione, possiamo dire, di diritto d'autore, di copyright. Se le chiamavano ancora province non valeva, ma se ci aggiungi l'aggettivo regionali è tutta un'altra cosa. Modifiche in extremis poi anche per i grandi evasori fiscali. Sino a pochi giorni fa scattavano le manette se si evadevano somme oltre i 3 milioni di euro. Ora si va in gattabuia se si evadono oltre 3 milioni di euro, ma solo se corrispondono almeno al 30% del fatturato e se si sono avute nella vita almeno un paio di scarpe viola di pelle di cerbiatto senza lacci. Ecco, questo è un po' l'identikit, così tanto per circoscrivere un po', altrimenti non si capisce più niente. E c'è in effetti talmente tanta confusione, diciamolo, che al Giro di Padania in questi giorni qualche ciclista si è smarrito, pure col satellitare, perché non si era studiato bene la geografia e anzi qualcuno si è lamentato che nei libri di testo questa benedetta Padania non l'ha trovata. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Siamo sulla terra, tranquilli, siamo tornati qua e vorrei sentire allora Franco da Rieti, vediamo se il collegamento è un po' più consono, un po' più agevole. Franco? Salve. Molto bene, Franco, diciamoci salve, siamo quelli di prima. Sì, perfetto. No, volevo dire che la soluzione per quanto riguarda i problemi del diritto sovrano dell'Italia sono la soluzione più semplice di quanto si pensi. E l'altra sera guardando... Cioè tu quindi ci stai dicendo che stai per risolvere la questione piuttosto critica dell'Italia? Sì, infatti stiamo praticamente chiacchierando molto, ma in realtà è una soluzione semplicissima. Bastano 2 ore di lavoro del governo. Aspetta che prendo punti, sì. 2 ore basterebbero, sì. A parte il fatto che voglio rispondere al suo opinionista di Panorama, dico che fortuna che Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, c'è, che è l'unica figura istituzionale che dà ancora un minimo di credibilità per l'Italia per il resto del mondo. Beh, diciamo che dai sondaggi si risulta questo effettivamente negli ultimi mesi. È la realtà secondo me. Comunque io la soluzione l'ha detta non un comunista, bensì il Nomisma in quella trasmissione. Chi è? Chi è? Scusa, Franco? Il direttore di Nomisma. Ah, sì. Che è un istituto di ricerca, banchiere, sì, tra l'altro. E lui ha detto una soluzione semplicissima. Dice, per risolvere il problema dell'Italia basta abbattere il debito sovrano di 300 miliardi di euro in un solo colpo, facendo una patrimoniale, perché di fatto la patrimoniale in Italia è già in atto. Con le borse che crollano, le azioni interessate, il valore delle case, dei terreni, c'è una patrimoniale. Quello che bisogna fare è ridare credibilità all'Italia, fare la patrimoniale di 300 miliardi sul primo 4% dei 10% degli italiani che hanno già mezzo paese, a dispetto di una distribuzione di reddito che altre democrazie hanno, e in questo modo si troverebbero risorse per crescere il paese, per rilanciare la crescita. L'Italia tornerebbe credibile sui mercati finanziari, il BTP, le azioni e quant'altro risalirebbero e andrebbe a vantaggio anche di coloro i quali contribuiranno a battere il debito e si intaccheranno coloro i quali non hanno mai pagato le tasse, perché non dimentichiamoci che quel 10%, solo un terzo o un quarto ha pagato le tasse realmente. E corrisponderebbe a un grossoletto pari a 8.600 miliardi di euro, cioè 4 volte il nostro debito sovrano. Franco, senti, tu sento la freccia della tua macchina, tic tic tic tic tic. Tu ti sei fermato apposta per raccontarci questa cosa, mi senti, Franco? Sì, ho staccato adesso dal lavoro, quindi... No, quindi ti ringrazio, mi immedesimo in chi ascolta la radio, ascolta Non ci sono più le mezze stagioni, e ha voglia di fermarsi un attimo sul ciglio della strada per dire la sua. Questo, intanto ti ringrazio, Franco, al di là di come la si può pensare, eccetera. Ma quello che ti volevo dire, Franco, tu quindi ritieni che questa possa essere una soluzione plausibile? Sì, plausibile, ed è l'unica, anche perché sarebbe equa, perché andrebbe a colpire chi ha attualmente 8.600 miliardi di euro. Ecco, ma questi numeri volevo chiederti, tu te li stai leggendo su un foglio o ce l'hai in mente così? No, ce l'ho in mente perché ho sentito la trasmissione. Che fai nella vita? Io lavoro in telecom, però prodotto di numeri, quindi sono, diciamo, un laureando in economia. Un laureando in economia? Giovane, sì. Giovane, Franco, o sei fuori No, corso? Ho 39 anni. Ah, ecco, quindi ti prendi una laurea nonostante tutto. Sì, ma per passione, veramente per passione. Complimenti, Franco. Senti, allora chiediamo subito a Giorgio Mulet, direttore di Panorama, chi ne pensa di questa possibile soluzione, Giorgio? Allora, solo una battuta, con tutto rispetto per Franco e per tutti gli altri. Cioè, un tempo in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici, oggi abbiamo 50 milioni di analisti, che anche giustamente, come dire, si lanciano in proposte, ed è questo. È però sono compartecipi, no? Questo è positivo. Per carità, questo è, appunto, stavo dicendo questo, quindi va benissimo. Sì. Gli 8 milioni, quello che è, di 600 miliardi a cui fa riferimento Franco, sono in realtà il totale della ricchezza di questo paese nel patrimonio immobiliare e mobiliare, cioè tutte le nostre case, chi ha case prime, seconde, chi ha qualsiasi patrimonio, ammonta alla cifra a cui lui faceva riferimento. Non si tratta, cioè, di denaro liquido o denaro contante che dall'oggi al domani o dall'oggi a qualche giorno può essere prelevato, perché il denaro contante è una parte che si aggira intorno ai 400 miliardi di euro, quello circolante depositato nei conti correnti, addirittura di meno. Quindi fare una patrimoniale su questo ammontare sarebbe bello, se solo si potesse fare, perché si dovremmo, su ogni casa, su ogni bene che una persona possiede, dire: ok, adesso vendi un muro di questa casa e mi dai per favore l'equivalente che corrisponde all'1 o al 3%. Sarebbe bello, ma non si può fare. Su Napolitano solo una notazione: è verissimo che svettano i sondaggi, è verissimo che è il faro a cui spesso guardiamo, è altrettanto vero che il Presidente della Repubblica non ha un ruolo politico, e quindi i suoi richiami, che sono sacrosanti e sono di natura generale alla responsabilità della politica, non hanno mai quell'atteggiamento che potrebbe essere negativo da parte di chi l'ascolta, perché non indicano mai, ovviamente, giustamente, una misura. Esatto, cioè anch'io posso dire: questo paese ha bisogno di crescere, prendo l'80% dei sondaggi, bisogna vedere, e questo è il compito della politica, come farlo. Questo solo per dire che quando si dice Napolitano svetta nei sondaggi, è vero, ha una figura straordinaria, di grande capacità, di moral suasion, eccetera, però è cosa diversa rispetto a una responsabilità politica che pretende di avere delle azioni che sono esposte poi all'affermazione oppure alla negazione del consenso da parte dei cittadini. No, questo senza dubbio, hai ragione Giorgio, anche se ci sono stati presidenti magari un po' meno amati nella storia della Repubblica, no? Da Leone, a Torto, a ragione, a Cossiga. Certamente meno amati, ma anche molto più invasivi e molto più di parte, come io non ho difficoltà a ricordarle, anche qui disposto a un dibattito sereno, come fu la presidenza Scalfaro, che per me rimane in assoluto la peggior presidenza della Repubblica del nostro paese, proprio perché interpretò il suo ruolo come un ruolo di parte. Tra poco cercherò anche di dare un occhio, non qui sul monitor, ma su quelle che mi sono stampate sulla pagina Facebook, i tantissimi commenti che ci sono stati anche questa settimana, su due notizie un po' diverse da quelle che stiamo trattando. Ne stiamo trattando come sempre tante, insieme a Giorgio Mulet, direttore di Panorama. Tra l'altro avevo qui tra le mani la copertina dell'ultimo numero, Avrò un figlio su misura, con un faccione enorme, molto bellino, di un bimbo con gli occhi blu sbarrati e la bocca aperta, è un po' sorpreso, diciamo, di questo figlio su misura. Panorama è andato nei centri, qui sottotitolo, di inseminazione artificiale, un'inchiesta a New York, dove puoi scegliere il donatore e le caratteristiche che deve avere il bambino perfetto. Tra l'altro non so se hai letto, Giorgio, di questo donatore americano, è stato scoperto che ha fatto 150 figli praticamente. L'ho letto, peraltro noi a corrente di questo servizio siamo anche andati da una famiglia che 20 anni fa aveva avuto 2 figli in provetta con la inseminazione artificiale, e 20 anni dopo abbiamo scoperto che queste ragazze hanno cercato il loro padre, ed è a corredo di questo peso sulle follie della provetta, così come lo abbiamo battezzato in copertina. Ecco, questo sarebbe un altro bell'argomento da aprire, sui pro e i contro. Poi d'altronde, chi non riesce a avere figli, come può fare altrimenti? Elisabetta, però, c'era la priorità di Elisabetta, che chiamava da Vicenza, e ha detto che la tua notizia sono le dimissioni di Stark, capo economista della BCE, tutto lo sconquasso che ne è seguito. Elisabetta, sì. Ecco, io volevo chiedere questo al direttore di Panorama. Sì. Cioè, queste dimissioni che ieri hanno gettato il panico sui mercati, cioè, sono un fulmine a ciel sereno veramente, o fanno parte di un disegno, cioè non di un complotto, ma così ci può essere una regia? Mi sembra veramente quasi impossibile che di venerdì pomeriggio così esca questa notizia, e mi chiedo, ma qualcuno sa come si potrebbe uscire da questa situazione, o stiamo veramente navigando a vista? Elisabetta, perché tu dici che se fosse successo di martedì sarebbe stato diverso. No, assolutamente no. Cioè, ma voglio dire, ci ha rovinato il fine settimana. Forse mi spaventa, non so se mi spaventa di più l'idea che nessuno sappia veramente come uscirne, o che non abbia un'idea, oppure l'idea che ci sia comunque un'architettura, ripeto, non qualcuno un complotto, che ci marcia, ma, cioè, qualcuno abbia così un'idea di cosa si potrebbe fare. Elisabetta, penso che potrebbe essere la donna, l'uomo più ricco del mondo se avesse in mano la soluzione. Non so se ci sia un complotto, si sa che noi italiani in particolare, ma non solo, abbiamo un po' le tesi complottistiche. Che dici, Giorgio Mulè? Ma sicuramente sono due fattori paralleli e diversi tra loro. Dunque, le dimissioni di Stark arrivano e non sono un fulmine a ciel sereno, perché rappresentano la parte più ortodossa della visione che ha la Germania rispetto ai comportamenti della BCE, che è una visione che è una visione, se volete, un po' tra virgolette egoistica, e cercherò di spiegare in due secondi perché. Cioè, il grande dibattito è: si devono aiutare i paesi che sono in difficoltà in questo momento rispetto al ripianamento del debito pubblico? La risposta, se uno ha davanti a sé la visione dell'euro, e quindi di una moneta realmente comune che mette insieme i decine di stati dell'Unione Europea, la risposta deve essere sì. Questo deve fare i conti però con alcune rinunce da parte di alcuni stati, o comunque con un impegno diverso che non guarda più soltanto all'interesse del singolo stato, ma guarda l'interesse di un disegno superiore. Questa visione è quella rifiutata da Stark da una parte, ma rifiutata anche da Weber, da Alex Weber, che era il candidato alla BCE, che poi è stato messo da parte perché gli è stato preferito Draghi. Questa visione va in parallelo con un'azione continuata, e in questo senso sì che non è a fulmine a ciel sereno, da parte dei cosiddetti speculatori, che sono gli hedge fund, che sono i finanzieri spregiudicati, che da tempo hanno preso di mira soprattutto le nostre banche, soprattutto le istituzioni finanziarie, per un motivo semplice: perché giocano in borsa a ribasso. Più le banche e la nostra borsa va giù, più loro guadagnano. Ecco, Giorgio, scusa, a questo proposito, perdonami se ti interrompo, perché molti mi chiedono, no, io sono tutt'altro che un economista, diciamo, ma vogliono sapere che cosa significa prendere d'attacco, speculare, fare andare giù la finanza, l'economia, la finanza italiana. Voi, tu che sei anche giornalista economico, tra le altre cose, no? Ci guadagnano è semplice. In modo molto semplice, molto didascalico, spiega. Guarda, è come se noi fossimo in una grande sala scommesse in cui decidiamo che il titolo che si chiama Roberta oggi deve andare giù. Allora io faccio delle vere e proprie scommesse, cioè scommetto che quel titolo andrà giù, perderà tra il 2 e il 5%. Come faccio a far verificare un'ipotesi del genere? La faccio verificare e la determino io. In che modo? Metto in giro la notizia, o comunque faccio circolare la notizia, che l'Italia non è affidabile, e contemporaneamente immetto degli ordini di vendita su quel titolo allo scoperto, cioè non avendo materialmente in mano i titoli di quella banca, creando una situazione di panico. Le persone che non partecipano al mio gioco, che vedono che il titolo va giù e la borsa va giù, si mettono in coda e vendono quel titolo. E vendono titolo. Il titolo Roberta. Quel punto io il titolo Roberta l'ho depresso, lo porto a un prezzo più basso, e io, con un differenziale di 2 punti o 3 punti che perde il titolo Roberta, in realtà guadagno cifre che sono 10, 20 o 30 volte superiori rispetto a quello che il titolo materialmente perde, e quindi divento ricco. Con le perdite in borsa. Non so se è chiaro, ma insomma, è un giochino banale questo. Sei stato chiaro, Giorgio. Sentiamo adesso Mustafa dalla provincia di Parma. Mustafa. Buon pomeriggio a lei e al direttore di Panorama. Grazie, Mustafa, buon pomeriggio. L'Italia ce la fa o non ce la fa? Finché abbiamo una classe dirigente che non riesce mai ad affrontare i problemi con impopolarità. Perché le pensioni a 67 anni, perché non sono state affrontate? Ve lo dice un operaio che ha lavorato 23 anni in Italia, a 67 anni lo fanno tutta l'Europa, invochiamo l'Europa, poi negli altri stati ci sono le pensioni a 67 anni, noi non possiamo affrontarle perché nel 2013, sì, arriveremo al 2013, ci sono le elezioni. Mustafa, scusa, perché tu saresti favorevole andare in pensione a 67 anni? Ma perché no? Ma perché no? Per quale motivo non piace? In più, il governo, non dico questo, ma anche i precedenti, quello che devono avvenire prossimamente, devono imparare a raccontare le cose come stanno in Italia. Sì, un anno e mezzo fa la crisi non c'era, noi abbiamo raccontato falsità ai cittadini italiani. Primo, questo governo, basta questo, per spingere il governo a dimettersi, in massa, non dico Berlusconi, ma in massa. siccome persone serie in Italia non ci sono, questi problemi nel 2013, nel 2014 ci troveremo ancora da varare ancora un'altra finanziaria. Mustafa, senti, dove sei nato tu? Io sono nato a Casablanca. A Casablanca, in Marocco. E da 23 anni che sono in Italia. Sì, sì, lo dicevi, e fai l'operaio. Ti ringrazio, Mustafa. Tra l'altro. Volevo sottolineare un'altra cosa, se lei mi permette. Sì, un secondo. Sì. Questa finanziaria, il dottor Molè lo può dire, è aggravata sulle donne. L'abbiamo mandata a 65 anni, con taglio al mondo sociale, per asili nidi, per tutto quello che serve per poter, diciamo, aiutare la donna ad affrontare il mondo del lavoro, che non ce n'è in Italia, tanto per dirla, l'abbiamo fatto subito, a 65 anni. Grazie. Grazie e buon pomeriggio. Grazie Mustafa. Ci voleva Mustafa, Giorgio Mulè, anche per sottolineare questa cosa, effettivamente. Allora. No, le donne si portano ai 65 anni, però nel contempo poi sono sempre loro che si devono occupare dei genitori anziani, dei nipoti, gli asili nido che scarseggiano, i servizi sociali, insomma. Giustamente. No, ma devo dire che la posizione di Mustafa, adesso davvero senza nessun, lo dico seriamente e convintamente, è una posizione, come dire, che rappresenta, a mio giudizio, anche il meglio dell'Italia, per tanti fattori, un po' perché vive da 23 anni in Italia, un po' perché rappresenta una persona che si è integrata in un tessuto sociale, un po' perché dice le cose assolutamente sensate. Cioè, quando lui dice della pensione a 67 anni, conferma quello che dicevamo prima, cioè noi siamo disposti a fare dei sacrifici, vogliamo che ci sia una classe politica e una leadership capace di imporre a questo paese delle misure realmente che ci portino fuori da questo tunnel. Sulle donne è lo stesso discorso, uguale. Le donne devono oramai, con l'aspettativa di vita e con tutto quello che ne consegue, lavorare più a lungo. E a proposito però dell'opposizione, appena si tocca questo tasto delle pensioni, le opposizioni che si dicono a parole a favore di misure che l'Europa ci chiede, prima fra tutte quella delle pensioni che in tutta Europa e in tutto il mondo non è come in Italia, a quel punto scendono in piazza e fanno sciopero. Per questo trovo ipocrita l'atteggiamento di un'opposizione. No, siamo d'accordo, Giorgio, però come diceva giustamente Mustafa, poi se vai in Francia, in Germania, le donne sono tutelate in modo diverso, anche l'accesso alle carriere, alle professioni, anche ai servizi sociali, guarda, è un po' diverso. Roberto, io su questo, come dire, dissento, nel senso che il nostro sistema di welfare, il nostro sistema di sacrosanto rispetto della maternità, della crescita del primo figlio, dei congedi parentali, di tutte le misure a favore e che sono sacrosante delle donne, sia molto avanti rispetto a quello che banalmente succede negli Stati Uniti, per esempio, che molto spesso viene portato come esempio di democrazia anche in termini di stato sociale all'avanguardia, cosa che io non penso. Basti pensare all'assistenza sanitaria che c'è da noi rispetto a quella degli Stati Uniti. Su questo, bene. Giorgio, ti vorrei far sentire la barzelletta famosa di questi giorni del ministro Sacconi e sapere cosa ne pensi a proposito di donne, prego. Poi, vedete, nella norma, dovrei fare un esempio un po' blasfemo per capire, per rispondere alla CGIL rispetto agli scenari apocalittici che ha fatto per questi accordi, che vale quello che disse una suora in un convento del 600 dove entrarono dei briganti, le violentarono tutte tranne una, e il Sant'Uffizio la interrogò e gli chiese: ma come mai lei non è stata violentata? E lei rispose: perché ho detto di no. Il sindacato può dire di no. Giorgio, un giudizio lapidario, quello che pensi, in poche... Ma sai, lapidariamente ti devo dire che spesso tutto questo viene veramente strumentalizzato. Quella barzelletta la raccontò Guido Carli, che è il rimpianto governatore della Banca d'Italia. Certo, non la racconto in pubblico, ma non è quello che a me... No, Giorgio, allora permettimi, secondo me che la vedetta Guido Carli, che la dica Sacconi, la ripeta qualcun altro, di destra e di sinistra, è spregevole. Ragazzi, no, è spregevole. Sugli stupri e sulle donne, scherzare e continuare anche con questo ragionamento, che se una è consenziente viene stuprata, ma se dice però mischiamo il sacro col profano. Cioè, noi non possiamo non trovarci convintamente tutti da una parte nel dire che chi guarda una donna senza un sentimento di pulizia è un animale. Su quello ci troviamo tutti d'accordo. E però non facciamola diventare anche la barzelletta di un ministro detta pubblicamente come metafora per capire se la CISL Wind è uno stacco a CGL. Sbagliato. Ha sbagliato il luogo dove pronunciarla è la barzelletta sbagliata. Su questo siamo d'accordo. Benissimo. Far discendere da questo però una serie di giudizi in capo alla persona, io non sono d'accordo. No, però io direi evitare un po' di buon senso, un po' di sensibilità, un po' di buon gusto. Giacomo? Buongiorno Giacomo. Complimenti per la trasmissione. Grazie Giacomo. Lo dici così perché si dice in automatico o lo pensi con grande sincerità? Lo penso perché ho scelto di parlare in questa trasmissione. Molto bene, mi convinci. Una delle migliori di Radio 24. Grazie. Allora, io parlavo più che altro, prima si parlava di ipocrisia, io parlo dell'ipocrisia degli imprenditori italiani. Adesso la Mantegaglia non vede l'ora che Berlusconi molli e se ne vada via. Però mi ricordo, prima delle elezioni, che lo applaudivano all'Assemblea degli Industriali, soprattutto quando lui ha poi presentato il piano per la privatizzazione dell'Alitalia, la cordata italiana, tutte queste cose, mandando a monte una delle poche cose buone che aveva fatto Prodi, di vendere l'Alitalia con i debiti, con i dipendenti in esubero, e l'hanno applaudito dopo, quando ha presentato questa cordata italiana, lasciando i debiti agli italiani, tutto quanto, no? Ci mancava solo che la Bocconi dava una laurea onoris a Berlusconi e Tremonti per questa trovata, il cinesino d'oro però agli imprenditori, ecco, perché ci vuole veramente Giacomo applaudire queste cose, 4 miliardi di debiti agli italiani, più la cassa integrazione e tutto quanto. Ti ringrazio Giacomo. Ieri Emma Marcegaglia ha detto questo governo, insomma, tra le conseguenze della difficoltà, dal pericolo e il rischio in cui si trova questo paese, oppure deve agire, no? Quindi insomma, mettendolo molto molto alle strette. È vero che nel corso del tempo si può cambiare idea su un governo, magari all'inizio lo si applaude, presenta un programma condivisibile, poi invece ci si accorge. Poi sulla questione di Alitalia si hanno ovviamente posizioni diverse a seconda anche evidentemente dei propri interessi o meno. Beatrice da Torino. Buongiorno. Buongiorno Beatrice, riesci a essere sintetica? Tutti. Perdonami Beatrice che mi dicono che devo correre un po'. Ma per carità. Grazie. Senta, io volevo dire che è apparso su internet una cosa pazzesca riguardo alla sanità dei ministri, omeopatia, dentisti, psicologi, agopuntura, chi ne ha più ne metta, cure estetiche, non so, e tante altre cose. Che sono una cosa pazzesca, loro non pagano niente, viene tutto rimborsato e vanno all'estero per farsi fare le cure e tutto gratis. Questa cosa dice che è stata fatta da Casini, ma non solo per loro, anche per 1109 loro familiari, 630 onorevoli. E lo so Beatrice, come diceva prima, scusa, perdonami, un'ascoltatrice, gli italiani sono un po' incavolati, diciamo, no? E anche giustamente lo ricordava anche Giorgio Mollet, confermava che effettivamente come si può non essere. Mentre disquisiamo ancora un po', il tempo corre, quindi ci lanciamo verso un nuovo appuntamento, eccolo questo appuntamento, con una firma storica e prestigiosa del Corriere della Sera, Maria Laura Rodotà. Cara Maria Laura. Ciao Roberta. Oh Maria Laura, eccoci qua. Maria Laura, in questi tre minuti in cui tu puoi sfogare tutta testa, tutti i tuoi pensieri, che ci racconti di questa settimana? Ma a me sembra una settimana in cui ci sarebbero state storie degne di miglior causa. Avremmo voluto una situazione più serena per appassionarci. D'altra parte, in un paese sereno queste cose non succedono. Comunque, una delle storie più appassionanti di questa settimana è purtroppo la crisi dell'economia italiana ed europea, hanno impedito di seguirla come avremmo dovuto. Sono le signore della Bari Bene. Le signore della Bari Bene. Inchiesta Tarantini. Alcune, cioè... Sono grandi discussioni a Bari, bene e non bene, su quali signore andavano con Giampi Tarantini alle feste di Palazzo Grazioli. E il mio collega Goffredo Buccini per il Corriere della Sera ci ha scritto su un pezzo veramente molto bello che va oltre le terrificanti intercettazioni che leggiamo di continuo e fa un affresco di questa città molto italiana, molto complicata, che a leggere sembra insomma a metà tra un romanzo di Carofiglio e un film con Lino Banfi. della... perché c'è questa città torbida in cui la borghesia è sempre in contatto con ambienti del crimine organizzato, e queste storie francamente pecorecce, però non si è avuto neanche il tempo per appassionarsi alle signore della Baribene, perché sono entrate, sono andate alla ribalta, ahimè, le suore. Sono d'accordo con te sul giudicare la barzelletta di Sacconi, sono molto intristita, devo dire, sulle ennesime rivelazioni sulle feste di Ascore, perché pare che Nicole Minetti ballasse al palo della lap dance con un uniforme da suora sexy insieme a un'altra ragazza, Barbara Fagioli. Ma soprattutto, e qui vorrei concludere, è una notizia che non è uscita ma mi è arrivata a te personalmente, Avanti Pop del Corriere, sì, e che riguarda voi milanesi soprattutto, perché una lettrice mi segnala che in zona Sempione, quindi anche vicino a voi, c'è un sex shop con un gigantesco cartello e alcuni manichini in costumi distinti. A saperlo prima, vedi? Leggo. Sì. Sul cartello c'è scritto: tutto per il bunga bunga. Infermiera, poliziotta, igienista dentale, cameriera, giornalista. Ognuno, quello che vuol fare da grande, insomma, lì si può rivolgere, sì, così. La cosa che, su cui ci dovremmo fare... non lo so, dovremmo chiederci dove abbiamo sbagliato tutte noi, è giornalista. Pronto? Dove abbiamo sbagliato, dici? Ci stavo pensando, va bene. Però è abbastanza preoccupante che siamo entrate, come dire, a far parte dell'immaginario sessuale di signori, credo, neanche giovanissimi, insieme a tutta un'altra serie di misteri. Ci informeremo se ci siamo anch'io e te, Maria Laura Rodotà. Grazie, ciao Maria. Grazie Laura. A voi. E passiamo adesso a un altro appuntamento immancabile, visto questo rimetti e ritira e rifai e rimetti con gli emendamenti. Io vorrei chiedere a Valeria Della Valle, della Sapienza di Roma. Valeria, emendamento, delucitaci. Emendamento, sì, velocissima. Sì. La parola emendamento ancora una volta deriva dal latino, e il verbo emendare significava e significa tuttora in italiano correggere. Quindi emendamento è parola, come dicevo, antica, già usata dalla fine del 300, ma con il significato del quale ci occupiamo purtroppo in questi giorni, quindi modifica di un testo legislativo con tutto quel che segue, la parola è molto più recente ed è il calco di una parola francese che è entrata nella nostra lingua alla fine del 700. Ma vorrei tornare per concludere al verbo emendare. Sì. Il verbo riflessivo, emendarsi, significa anche riconoscere i propri errori, ravvedersi, correggersi, e mi sembra un verbo con questo significato molto adatto a chi, dopo aver fatto la manovra, l'ha dovuta emendare. Quale magnifica conclusione di Valeria Della Valle! E mentre ci avviciniamo a questi ancora 33 secondi che ci rimangono con Giorgio Mulè, Giorgio, avrei voluto chiederti dell'articolo 8 cosa ne pensi, del giro di Padania, del caso Tarantini, ma abbiamo adesso 24 secondi, che come concludiamo, Giorgio Mulè? Articolo 8, sacrosanto, giro della Padania, iniziativa folcloristica sulla quale si sono accaniti in maniera, secondo me, stupida gli espositori, e poi sulle donne? Ma sulle donne, guarda, sulla Baribene, ognuno, se guardassimo dentro la Roma bene, la Milano bene, la Bologna bene, scopriremmo cose, come dire, al pari o addirittura più gustose per chi è amante del genere del buco della serratura rispetto a Bari. Un paese che si dà un gran da fare. Grazie a Giorgio Mulè, a presto. Grazie, Giorgio, salutaci la Sicilia e la grattacheca. La granita alle mandorle. Ciao Giorgio. Ciao, grazie. E da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.